Riguardo le ultime dichiarazioni del sindaco, diciamo che da quello che è il nostro punto di vista ci sembra un po' l'ennesima boutade o idea strampalata tirata fuori così un po' all'ultimo istante per diversi motivi. Innanzitutto questa nuova idea di trasformare XM in uno spazio utilizzato per delle case popolari ci sembra alquanto azzardata per vari aspetti. Innanzitutto quello spazio è di interesse storico e sarebbe impossibile abbatterlo, e anche come è messo strutturalmente, la vediamo proprio difficile come ipotesi quella di realizzare delle case popolari in uno spazio aperto su tre lati e con degli scantinati. E soprattutto poi questa nuova uscita è contestabile per quella che è stata la progettazione politica della città delle ultime amministrazioni a Bologna. Cioè noi di XM ogni giorno vediamo con i nostri occhi e viviamo a contatto con degli scheletri di palazzine destinate all'edilizia popolare, come può essere quella della Trilogia Navile, come è nell'angolo di Via Fioravanti Bolognese, Palazzina Acer, che è stata completata ma anch'essa rimasta vuota e non utilizzata. Quindi ci sembra assurdo che vogliano fare altra edilizia popolare nonostante quella che già c'è è finita in fallimento, con vicende oscure riguardo a quegli appalti, e che quindi non sappiamo bene se sia una promessa fattibile o più una cosa buttata lì. Anche perché ricordiamo pure la situazione dell'ex Telecom, dove c'era un'emergenza abitativa, c'era una richiesta abitativa forte, e sappiamo come è andata a finire quella vicenda, con uno sgombero ferocissimo, con la gente buttata in strada e con una situazione autogestione. Si dava la possibilità di abitare a decine e decine di famiglie. La questione si è risolta offrendo l'appalto a una società olandese che fa studentati di lusso in tutta Europa. Diciamo che se si vogliono occupare di questione abitativa, per come è andata la cosa fino adesso, sembra abbastanza paradossale che vogliono fare di XM delle case popolari. Un altro aspetto che sicuramente colpisce di queste dichiarazioni è che per l'ennesima volta il sindaco sta tentando di distinguere all'interno di XM associazioni o soggetti più buoni di altri, quando invece quello che chiediamo da sempre è che XM venga riconosciuto per quello che è, cioè un'assemblea autogestita dove collettivamente decidiamo ogni martedì come mandare avanti quello spazio, senza la necessità di bandi, di immatricolazioni, di irrigidirci o di definirci in una qualche categoria utile al comune. Quindi questa divisione che ritorna sempre tra buoni e cattivi ci lascia un po' il tempo che trova, perché lì dentro tutte le esperienze che attraversano quello spazio scelgono coscientemente di far parte di quello spazio, perché quello spazio è così, perché quello spazio è fatto in quel modo, perché è un'esperienza politica che si fonda sulla condivisione di determinati valori e sul concetto base fondamentale dell'autogestione, che non ha bisogno di riconoscimenti burocratici. Ecco. Per questo, al di là dell'idea, ci sembra per l'ennesima volta una sorta di attacco a quella che è l'esperienza politica di XM, a quello che XM rappresenta, ma non solo ad XM in sé, perché è come se fosse rivolto a tutte le esperienze simili o dissimili da XM, nel senso che dire uno spazio del genere non ci deve essere più, magari le associazioni buone possono venire da un'altra parte, è come dire tutto quel mondo che si riconosce nelle pratiche dell'autogestione, nel mutualismo dal basso, nella solidarietà, nelle pratiche politiche, come nell'antirazzismo, l'antifascismo, l'antisessismo, non devono esserci a Bologna. Quella contestazione politica per noi sana non deve più esistere a Bologna. Una dichiarazione che prendiamo e analizzeremo in assemblea e valuteremo, ma sicuramente la proposta del bando per associazioni buone non è nelle nostre corde, ecco. Sì, tra l'altro sul bando, il presidente di quartiere in realtà aveva detto, tra l'altro poco fa, nel senso deve esserci anche qualche problema di comunicazione interno poi, perché aveva detto che ci sarebbe stato un bando apposta per XM, mentre Merola nelle sue dichiarazioni ha anche dichiarato che questo bando comunque non sarà pensato apposta per XM, ma sarà semplicemente l'apertura di un bando a cui voi potreste partecipare, ma non è pensato, diciamo, per voi. E tra l'altro poi dice anche alla fine, chiude dicendo, non dipende tutto da noi, se capiscono l'opportunità e la colgono, credo che tutto si possa risolvere tranquillamente. E allora ti volevo chiedere, insomma, se capite questa opportunità e avete intenzione di coglierla. Ecco, diciamo che rispetto anche a quello che dicevi delle correnti mi trovi d'accordo, perché appunto pochi giorni prima anche lo stesso ARA parlava di progetti sociali e culturali come XM, quindi non vedo il perché farne qualcos'altro. E appunto tra di loro c'è anche un problema di correnti interne, tra chi insegue di più la destra e chi meno, chi è più pronto al dialogo, chi è più pronto a sgomberarci da un momento all'altro, quindi è anche difficile trovare modo di avere un dialogo o costruire una soluzione con delle persone che non sono neanche d'accordo tra di loro. Quindi io penso che per quanto riguarda la proposta del bando, come abbiamo sempre fatto in maniera collettiva e pubblica, ne parleremo questo martedì in assemblea. Quello che ti posso dire rispetto ai comunicati passati o quella che è stata la nostra linea fino adesso è che non ci siamo mai riconosciuti in percorsi del genere e già dal 2013 trovavamo questa soluzione inadeguata e se n'era già discusso arrivando a definire una nuova modalità che era quella di una convenzione stilata con un comitato che riconoscesse l'autonomia delle autogestioni come quella di XM24. La vedo come una soluzione complicata perché il bando veramente definisce e ti inquadra in un modo che per quella che è la realtà complessa in uno spazio come l'XM24 la vedo poco compatibile. Ne parleremo chiaramente in assemblea, ma è chiaro che sembra un po' una sorta di apertura che da una parte però anche dei toni di chiusura, nel senso che o accettate quello che vi proponiamo o ricordatevi che c'è lo sgombro e siete voi che avete sputato sul piatto che vi abbiamo offerto. Quindi sicuramente è una proposta che, come tutte le uscite che ha fatto il sindaco, valuteremo nell'adeguata sede dell'assemblea. Fino a questo momento ci siamo espressi perché venga riconosciuta l'autonomia dell'autogestione di XM, cosa che un bando chiaramente non lascerebbe intendere, ecco. Solo un'ultima domanda al volo, visto che l'assemblea è pubblica e si terrà come ogni settimana martedì, ovvero domani, ti chiederei solo di ricordare l'appuntamento per chi ci sta ascoltando e volesse venire ad ascoltare anche la discussione di domani. Allora, XM24 è uno spazio aperto a tutti e tutte e si confronta sulle decisioni da prendere, su come andare avanti nello spazio il martedì sera alle 21. Per chi è interessato, domani sera ci confronteremo appunto anche su questa questione e capiremo quale percorso intraprendere e quale comunicato fare uscire come risposta.